ci racconti una storia. I racconti di Laura Lorenza Sciolla. Un libro che talvolta mi diletto di sfogliare è Santi dimenticati di Rino Camilleri, edito da PM nel 1996. Il sottotitolo recita: Soldati di venture e cortigiane, banchieri e ciabattini, balie e regine, gli imprevedibili casi che portano a Dio. Rino Camilleri, giornalista e scrittore, curò la rubrica del giornale Il Santo del Giorno, che ha ispirato il libro. La rubrica ebbe straordinario successo. Molti lettori intrattennero una vivace corrispondenza con il giornalista, dando e chiedendo notizie del loro santo. Nel libro, l'autore ha raccolto le storie di più di 360 santi poco noti ai più, ma dalle incredibili, spesso romanzesche biografie. Interessante la parte finale dell'introduzione, nella quale lo scrittore spiega le motivazioni che, secondo lui, stanno alla base del culto dei santi, ancora vivo in un'epoca spesso lontana dalla fede come la nostra. Ecco cosa scrive Rino Camilleri. In un mondo, il nostro, spazzato dagli ismi, è essenziale ricordare che il cristianesimo si rivolge all'uomo concreto, al singolo, con nome e cognome, e non astrattamente all'umanità. L'inveramento nella storia del cristianesimo è il santo. È in lui che la buona novella si realizza e diventa visibile. Rileggere la storia dei santi significa non solo immergersi in un mondo di avventure umane molto più stupefacenti di quelle uscite dalla fantasia del più fantasioso tra i romanzieri, con il vantaggio che si tratta di vicende accadute davvero, ma anche non sentirsi più soli. Siamo costantemente sotto lo sguardo di questi nostri fratelli maggiori e, quando la chiediamo, sotto la loro protezione. Desidero leggervi la storia di un personaggio che pochi sanno essere diventato santo, il buon ladrone. Si chiamava Dimaco e la sua festa, per motivi a me ignoti, ricorre il 23 marzo. Vi leggo ciò che di lui viene narrato nel libro Santi dimenticati. Ecco un santo che pochi invocano, ne consigliamo senz'altro il culto, avendo poche richieste da esaudire, almeno da lui non ci sarà la fila. Pare si chiamasse Dimaco, l'altro il cattivo, Tito. Era un volgare tagliagole da strada, di quelli con alle spalle diversi omicidi a scopo di rapina, magari ai danni di poveracci. Eppure è il primo santo della storia del cristianesimo. L'unico, tra l'altro, ad avere avuto l'altissimo privilegio di essere canonizzato da Cristo in persona. Davvero stravagante questa religione, che ha come Dio un carpentiere giustiziato, come primizia della santità un ignobile assassino palestinese, come primo pagano battezzato un militare dell'esercito invasore, il centurione romano Cornelio. Anche Cornelio infatti divenne santo, con il nome di Cornelio il Centurione, festeggiato il 2 febbraio. Fu, come detto prima, il primo pagano battezzato. Dimaco e Tito rappresentano tutta l'umanità, di cui metà è insofferente della croce che deve portare, e impreca contro la sorte o contro quella divinità, se c'è, che la permette. L'altra parte l'accetta, pur non capendo nel senso, e umilmente chiede a chi può di ricordarsi di lei. Di fronte alla sofferenza, quelle di cui non possiamo liberarci, non c'è altra scelta, di qua o di là. Tito, il cattivo, in fondo faceva una cosa che apparentemente può sembrare la più logica, chiedendo a quel crocifisso che si pretendeva Dio di liberare se stesso e lui. Su Dimaco, invece, a un certo punto prevale la pietà per quell'innocente appeso accanto a lui e riesce per un attimo, pur nella gravissima circostanza, a dimenticare i suoi guai personali per interessarsi di quelli del suo prossimo, in quel tragico momento, più prossimo. Non si pente neanche delle sue malefatte, semplicemente le mostra al suo creatore, chiedendo una raccomandazione. Fu così che a quel ladro, sul patibolo, riuscì il colpo più grosso della sua vita, quello di rubare il cielo. Sono davvero tante le vie che portano al cielo. A risentirci. Avete ascoltato? Prof, ci racconti una storia. Un'idea di Adelaide Spallino. Programma curato e condotto da Laura Lorenza Sciolla. Regia di Dario Albertini. Prof, ci racconti una storia è una produzione Radio Libriamoci Web per Associazione Culturale Clarite. Licenza Creative Commons 2.5. I racconti di Laura Lorenza Sciolla vi danno appuntamento alla prossima settimana.